e meno tu mi ami, più io ti parlo di me e meno tu mi ascolti. Cosa darei per trovare un segno del tuo amore? Ma ogni sorriso che hai per me sulle tue labbra muore. Ma forse tu cambierai, ma forse tu mi amerai. Io devo sperare ancora, se voglio vivere. Più mi avvicino a te e meno tu mi vedi. E meno tu mi vedi.